Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero. Ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso. Sono qui che ti aspetto da ore, da ore. Amami come se fosse vita, amami per tutta la vita, amami. Cercami nel buio profondo, oppure dentro la luce del giorno, ma amami. Le notti alternano sogni e silenzi, ma nei tuoi abbracci ritrovo i miei sensi. Ci vedo più chiaro in questo futuro che sembra sempre un po' meno duro. Ci pensi di questi tempi, ci pensi. Amami come se fosse vita, amami per tutta la vita, amami. Cercami nel buio profondo, oppure dentro la luce del giorno, ma amami. Sento perso, tu dimmi dove devo andare per venirti a cercare. Amami come se fosse vita, amami per tutta la vita, amami. Cercami nel buio profondo oppure dentro la luce del giorno, ma amami. Amami come se fosse vita, amami per tutta la vita.